La vita è un grande volo e a volte serve un colpo d'ala per farci crescere, salire un po' più su o solo capire che il vento è più forte di noi. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati al podcast di Effetto Giorno. Io sono Simone Spezia, come sempre al microfono e come sempre in questa sede cerchiamo di ricompattare un po' le notizie, cercando sempre di darvi un quadro della giornata, ma cercando di rimettere insieme i pezzi, per così dire. Se avete critiche, commenti, tutto quello che volete, effetto giorno @radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure naturalmente anche il mio account Twitter Simone Spezia, si scrive Simone Spezia. Che cosa ci offre la giornata? Ci offre innanzitutto le nuove notizie che arrivano dal fronte iracheno-siriano, contenuto in realtà in un rapporto delle Nazioni Unite, un rapporto terribile che racconta addirittura di crocifissioni di bambini da parte di ISIS. Questo ci porterà a parlare anche di quello che è successo in Camerun, dove Boko Haram, altri estremisti islamici, hanno portato un nuovo attacco. Il lato economico vede la caduta della borsa greca e delle banche greche dopo l'annuncio da parte della Banca Centrale Europea di una prossima interruzione di una parte della fornitura di liquidità, e dall'altra parte la presentazione delle previsioni da parte della Commissione Europea che riguardano anche l'Italia. Sempre sul fronte economico c'è un'iniziativa interessante alla quale abbiamo deciso di occuparci, ed è l'iniziativa presa dal cosiddetto popolo delle partite IVA, ossia i lavoratori autonomi, che continuano a protestare per l'innalzamento dei contributi da parte del governo per questo 2015 e sperano in un cambiamento all'interno del decreto mille proroghe. E che cosa hanno fatto? Hanno lanciato un'iniziativa online, un tweet storm con l'hashtag #refurtiva, con IVA scritto maiuscolo. Abbiamo sentito una parte dell'intervista che abbiamo realizzato all'interno della trasmissione e sentiremo qua l'integrale. Ci occuperemo anche naturalmente di maltempo, vista la giornata di oggi, di politica, ancora con la coda dell'elezione del Presidente della Repubblica e anche al centro di tutto il tema della corruzione. Sono arrivati molti sms alla trasmissione da sostenitori del Movimento 5 Stelle che ci dicevano: non avete dato con abbastanza forza la notizia che la Camera ha deciso per un calendario che non preveda, come il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto, il DDL anticorruzione in aula già dalla settimana prossima. Naturalmente parleremo anche di questo. Infine una storia che abbiamo lasciato un po' in sospeso all'interno della trasmissione e, come già annunciato in trasmissione, abbiamo deciso di riprendere. La vicenda di Agrigento, una vicenda incredibile di spreco di denaro pubblico, una serie di commissioni consiliari, ossia del Consiglio Comunale, convocate, durate pochi minuti, tutte con presenza a gettone e una spesa per il Comune da 300.000 euro ai consiglieri comunali per delle riunioni sostanzialmente inutili, 1.100 riunioni solamente nel 2014. Ne abbiamo parlato con l'ex sindaco Marco Zambuto, che ha denunciato la cosa. Iniziamo però dall'estero e iniziamo però da ISIS dal rapporto delle Nazioni Unite. Non sono più solo voci, testimonianze parziali o senza evidenza. Ora purtroppo c'è l'ufficialità di un rapporto ONU a denunciare le violenze e le torture subite dai bambini ad opera degli jihadisti dell'ISIS in Iraq. Il rapporto cita molti casi di esecuzioni di massa di minori, così come decapitazioni, crocifissioni, sepolture di bambini vivi e ancora un alto numero di bambini, compresi disabili, utilizzati per combattere oppure trasformati in scudi umani o kamikaze. Si tratta di un problema enorme, ha dichiarato a Ginevra Renate Winder, una dei 18 esperti internazionali indipendenti, membri del Comitato dei diritti dei minori delle Nazioni Unite, il cui compito consiste nell'assicurare che gli Stati rispettino i trattati internazionali relativi ai diritti dei bambini. Intanto, dopo l'uccisione del pilota giordano, bruciato vivo e filmato in un video, la Giordania non esclude la possibilità di inviare truppe speciali di terra per operazioni contro lo Stato islamico. La notizia fa seguito a un'altra, impossibile per ora da verificare, data ieri da account Twitter vicini ai peshmerga curdi, secondo la quale l'aviazione giordana avrebbe bombardato postazioni dell'ISIS a Mosul, nel nord dell'Iraq, uccidendo 55 jihadisti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro nel servizio. Nel corso della trasmissione abbiamo sentito Maria Rita Parsi, che è una psicoterapeuta, ma soprattutto è membro della Commissione per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, una commissione composta da 18 persone, che è quella che poi ha stilato materialmente il rapporto. Le abbiamo chiesto delucidazioni, chiarimenti anche sulle fonti di questo rapporto. Ci racconta che i territori controllati dall'ISIS e l'ISIS hanno scoperchiato il vaso di Pandora di quello che è la condizione di tanti bambini in tante parti del mondo, perché noi pensiamo semplicemente ai nostri bambini, ai bambini dell'Europa eccetera, ma non pensiamo mai che in altre parti del mondo, in Asia, in Africa per esempio, ci sono situazioni dove i bambini vengono perseguitati, vengono brutalizzati, vengono venduti come schiavi, vengono sfruttati sessualmente, cioè c'è una situazione talmente drammatica nel mondo, talmente viva, che noi viviamo tutte le volte che facciamo incontri con le nazioni che aderiscono a queste 193 nazioni che hanno aderito alla difesa dei bambini con la Carta dei diritti, che veramente rimaniamo sbalorditi noi stessi, ed è una situazione di una drammaticità che racconta come il mondo non ha futuro, perché se aggredisce in questo modo i bambini, e li aggredisce in questo modo in tutte le forme, anche nelle società più evolute dove le forme sono altre ma sono altrettanto gravi, significa che veramente il mondo non ha futuro. Senta professoressa Parsi, in particolare in questo rapporto appunto si racconta di crocifissioni, di bambini sepolti vivi, di una sorta di vera e propria pulizia etnica nei confronti dei bambini di queste minoranze. Significa spezzare, è come quando si violentano le donne, no? Per creare, mettendole incinta, altre condizioni che non la loro etnia che continua. Così uccidendo i bambini si uccide proprio il futuro, no? Mettendoli in una condizione, perché l'esecuzione di massa dei bambini è qualcosa che terrorizza tutte le popolazioni, che uccide le famiglie, che smembra completamente. Cioè è proprio è un discorso che d'altra parte chi ha una tradizione a ripensare a quello che è successo in Europa 70 anni fa. Con gli ebrei non dovrebbe avere problemi a capire, no? Si uccidono i figli perché non ci sia continuità per questa, è una lotta proprio fatta proprio per la distruzione dell'etnia avversaria. Quindi una scelta specifica, è una scelta che ha le caratteristiche del genocidio, come... Sì, assolutamente, lei dice bene, ha le caratteristiche proprio del genocidio, cioè il discorso di facciamo pulizia, eliminiamo, non ti permettiamo di continuare a esserci, ti distruggiamo. Guardi, per dirla con Eric Fromm, è un'angoscia di morte così devastante quella che portano questi assassini, che il discorso è loro: io morirò ma morirete tutti. È una colpire queste persone pensando che fa paura loro la morte, è inutile, bisogna cambiare, bisogna combatterli in altra maniera, bisogna combatterli culturalmente, bisogna fare un lavoro di tutti quanti insieme, perché sono portatori di un'angoscia di morte così grande che non temono la morte e la danno, quindi non sono ricattabili dal meccanismo a paura di morire. Senta, da che fonti avete raccolto le notizie per poi redigere questo rapporto? Lei sa che c'è la massima copertura per le fonti da cui raccogliamo queste cose, ma vorrei segnalarne due assolutamente: le ONG, le organizzazioni non governative che sui territori di tutte le nazioni del mondo si battono in maniera incredibile e ci portano queste informazioni, e poi per quello che riguarda i territori occupati dall'ISIS, cioè l'Iraq e, diciamo, e dintorni, c'è la Nazioni Unite per l'Iraq, l'UNAMI, che ha raccolto queste informazioni. Naturalmente sono informazioni che vengono date confidenzialmente, che quando superano un livello di guardia talmente grave noi immediatamente trasformiamo in comunicazioni al mondo. Ci sono delle cifre, professoressa Parsi, su quanti bambini siano rimasti vittime di tutto questo? Cifre no, ma si parla di cifre considerevoli. Si tratta di esecuzioni di massa, quindi nell'ordine delle centinaia, immagino. Sì, nell'ordine delle centinaia. Proprio esecuzioni di massa di bambini con atti di brutalità talmente gravi che rimandano, se lei pensa a quello che è stato fatto con il video del pilota ucciso, bruciato vivo, poi è un meccanismo, come dire, di esaltazione dell'angoscia di morte, una spettacolarizzazione della morte che tende a spaventarci, a dirci non avete futuro, non avete possibilità, la morte vi batte. Ecco, questo è il principio. La violenza jihadista che non si scatena solamente in Siria e in Iraq, ma è una violenza che si scatena anche in Africa, una questione che a volte tendiamo a dimenticare o a lasciare sotto traccia, che tendiamo a ritenere, a sentire più lontana. Eppure ieri sarebbero state uccise forse 400 persone, anche se le fonti non sono chiare. Ci ha raccontato tutto Riccardo Barlam del Sole 24 Ore. Miliziani islamisti di Boko Haram ieri hanno assalito la città di Fotokol nel nord del Camerun, al confine tra Nigeria e Chad, per rappresaglie. Avrebbero massacrato centinaia di civili, 100, alcuni parlano addirittura di 400 civili. I testimoni hanno raccontato di decine di cadaveri che giacciono ancora lungo le strade, nelle chiese, nella moschea di questa città camerunese. I miliziani di Boko Haram erano 800, sembra. Hanno agito per rappresaglia contro il contingente dei Caschi Verdi del Chad che pochi giorni fa hanno liberato una città nigeriana, Gambaru, a poca distanza dal confine con il Camerun. In quest'area da 6 anni si combatte una vera e propria guerra. Boko Haram, in questo suo autoproclamato califfato, controlla ormai un territorio grande come il Belgio. Le vittime di questa guerra lontana da noi lo scorso anno sono state almeno 4.700. Pochi giorni fa l'Unione Africana ha deciso di inviare 7.500 soldati di una forza multilaterale formata da Nigeria, Camerun, Niger, Chad e Benin, e la guerra continua. E siamo all'economia. È una giornata di tensione, è stata una giornata di tensione per i mercati finanziari, soprattutto per il mercato finanziario greco, dopo la decisione da parte della Banca Centrale Europea, l'annuncio che interromperà l'afflusso di liquidità alle banche greche. La faccio molto semplice, naturalmente è più complessa di così, anche se naturalmente resta la possibilità per la Banca Centrale Greca di fornire liquidità alle banche in particolare difficoltà. Eppure, nonostante tutto questo, la borsa ha reagito malissimo. Atene è arrivata a perdere in mattinata circa il 10%, le banche addirittura il 25%, è in corso un giro di incontri sulla Grecia, Grecia che reagisce dicendo non ricattiamo nessuno, ma non siamo nemmeno disposti a farci ricattare. In tutto questo arrivano le previsioni sull'economia della Commissione europea, previsioni che ci parlano naturalmente tanto della Grecia quanto dell'Italia, e ce le racconta Sergio Nava. Partiamo proprio dalla Grecia, con la Commissione europea che definisce la crescita ellenica a rischio. L'incertezza sulla direzione delle politiche sta avendo effetti sulla fiducia e può intralciare la velocità della ripresa, afferma Bruxelles, che per Atene stima una crescita del 2,5% quest'anno e del 3,6% il prossimo. Il debito è previsto in calo al 170% quest'anno e al 159% il prossimo. Però, come sottolinea la Commissione, tutte queste previsioni sono tarate sulla prosecuzione degli impegni programmatici già sottoscritti da Atene, in sintesi quelli finora implementati dal governo Samaras. Il sottinteso è che qualsiasi cambio di strategia in materia di politica economica con Tsipras aprirebbe scenari diversi. Veniamo ora all'Italia. Bruxelles stima una ripresa graduale quest'anno, sostenuta soprattutto dalla domanda esterna, quindi dall'export. La domanda interna è prevista in moderato miglioramento. In numeri parliamo di una crescita finalmente positiva, una ripresina dello 0,6% per il 2015, dopo 3 anni col segno meno, e di un più 1,3% il prossimo. Il deficit dovrebbe calare arrivare al 2,6% quest'anno e al 2% il prossimo, mentre il vero macigno resta il debito pubblico al 133% quest'anno, prima di calare di un punto il prossimo. A livello macro, sottolinea Bruxelles, le condizioni del mercato del lavoro restano deboli, con una disoccupazione vicina al record del 13%, mentre gli italiani, prima di riprendere a consumare, dovranno ripristinare i patrimoni erosi dalla crisi. L'inflazione, riassume la Commissione, nel 2015 sarà negativa a causa della caduta dei prezzi del petrolio, della disoccupazione e della debole domanda interna. Il rischio maggiore per la nostra economia può arrivare da un ritardo della ripresa della domanda esterna. L'Italia le prese con i suoi problemi, e tra i suoi problemi sicuramente c'è la situazione dei lavoratori autonomi. Problemi quelli dei lavoratori autonomi che tendono un po' a volte a rimanere sotto traccia. C'è forse una carenza di rappresentanza politica, anche una carenza di capacità di farsi rappresentare. Dunque scelgono i social network in queste occasioni e lanciano quello che si chiama un tweet bombing, ossia dei tweet scritti mettendo in copia il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e con un hashtag preciso che è Refurt IVA, con IVA scritto maiuscolo per far capire bene di cosa si parla. Abbiamo chiesto ulteriori dettagli a Rosangela Padula di Alta Partecipazione, una delle associazioni che ha organizzato la cosa. Ascoltiamo. Allora, diciamo, noi protestiamo come popolo delle partite IVA, questo, diciamo, un termine che comunque viene utilizzato, ma in realtà preferiamo considerarci dei lavoratori autonomi al di là della partita IVA, e perché diciamo, il governo Renzi, dopo tante promesse, ci ha assolutamente non solo ignorati in alcuni atti, invece ha provocato un peggioramento delle nostre condizioni. Innanzitutto ci ha ignorati nella vecchia normativa che riguardava il famoso bonus di 80 euro, dopodiché però aveva promesso degli interventi ad hoc. In realtà questi interventi ad hoc sono sostanziati in un regime agevolato, comporta un peggioramento rispetto a quello dell'anno precedente, perché tanto per iniziare ha dei requisiti più stringenti, quindi meno persone che ci riescono ad entrare, e ha un'aliquota più alta. Inoltre, l'altra cosa su cui in particolare stiamo mirando il nostro tweetbombing di oggi è l'aliquota previdenziale. Gli autonomi sono iscritti in gestione separata, sono soggetti a un'aliquota che ad oggi è pari al 30,72% del loro reddito netto, ed è un'aliquota assolutamente per noi insostenibile, oltre che a maggior ragione perché in cambio le prestazioni che questa gestione separata ci dà sono assolutamente minime. E considera che per due anni noi siamo riusciti, anche attraverso queste manifestazioni con i governi precedenti, ad avere il blocco dell'aliquota al 27,72, che comunque è un'aliquota comunque molto alta, e invece questa volta col governo Renzi, che invece aveva promesso appunto degli interventi mirati anche per noi, non ci siamo riusciti. L'ultima nostra possibilità è il mille proroghe, quindi stiamo cercando di far sentire la nostra voce il più possibile per cercare appunto di sollecitare un intervento in questo senso. Vi sentite un po' dimenticati complessivamente come mondo degli autonomi, non solo dall'attuale governo, dico in assoluto, insomma, a livello proprio di rappresentanza politica? Beh, diciamo che come autonomi noi ci siamo comunque organizzati in una serie di associazioni in cui cerchiamo di far sentire la nostra voce, però sì, assolutamente è evidente che comunque siamo dei figli del Dio minore. Nel Jobs Act, che doveva comprendere tutti i lavori, ad esempio, che proprio nel suo nome doveva essere l'impatto, delle partite IVA non si parla nella maniera più assoluta, non è previsto assolutamente nulla. Quindi noi siamo cercando con le varie associazioni di rappresentanza, tra cui Alta Partecipazione, ma anche ACT e Confassociazioni, per citare le più grandi con cui noi spesso organizziamo manifestazioni, tweetbombing, eccetera, di far sentire la nostra voce. Abbiamo anche partecipato, insomma, a delle audizioni in commissione lavoro per cercare comunque di far capire che abbiamo anche noi dei problemi. In particolare i giovani professionisti hanno delle importanti difficoltà, perché hanno visto comunque i loro redditi diminuire in maniera importante negli ultimi anni, anche per causa della crisi, e dall'altra parte hanno, come dicevo prima, un welfare assolutamente inesistente. E quindi, ecco, cerchiamo di fare il possibile per far sentire anche la nostra voce. Dal lato delle manifestazioni, adesso stiamo parlando naturalmente di una manifestazione via web che si svolge alle 13 alle 14. Avete intenzione, nel caso non andasse in porto, di fare anche qualcosa in piazza? Diciamo, più che in piazza, stiamo immaginando, in questi giorni, una manifestazione in cui potremmo, come dire, spiegare le nostre proposte, invitare il governo ad ascoltarci e a come dire, far sentire la quali sono le nostre proposte, che noi abbiamo già elaborato in tutti questi anni. Abbiamo delle proposte molto specifiche, pensate appositamente per i lavoratori autonomi, perché l'altro grande problema che noi abbiamo è che anche quando esistono delle misure a sostegno dei lavoratori autonomi, sono comunque pensate con criteri, con requisiti tarati sul mondo dei lavoratori dipendenti. Quindi anche quando esistono, come dire, degli atti che in buona fede vogliono venirci incontro, poi nella realtà concretamente spesso risultano comunque non fruibili. No, ti faccio l'esempio più eclatante, che è quello della maternità. Nella gestione separata, quella in cui appunto versano la cassa INPS, nel quale versano gli autonomi, è prevista un'indennità di maternità, ma per accedere vi viene chiesto alle lavoratrici di astenersi dal lavoro, così come avviene per le dipendenti. È ovvio che però i risultati di un'astensione della lavoratrice autonoma sono diversi, perché quando ritornerà al lavoro avrà comunque perso tutti i propri clienti, che non potranno ovviamente aspettare tutti questi mesi senza qualcuno a cui riferirsi. E quindi quello che noi chiediamo è che, è vero, esiste un'indennità di malattia, permetti anche alle lavoratrici autonome di fruirne, indicando insieme, elaboriamo insieme una normativa che permetta di fruirne effettivamente, senza però perdere del tutto il lavoro e i clienti che sono cercato di raggiungere in tanti anni di lavoro. Siamo alle cronache essenzialmente di maltempo nella giornata di oggi, grandi nevicate, problemi soprattutto sull'autostrada del Sole, ma non solamente là. Il servizio. Neve al nord e piogge al centro-sud. Nelle ultime ore l'attesa ondata di maltempo si sta facendo sentire praticamente in tutta Italia. Le nevicate più abbondanti fra Liguria e Basso Piemonte, in Emilia-Romagna e sull'Appennino Tosco-Emiliano. In mattinata i primi fiocchi hanno iniziato a cadere anche sul centro di Milano e di Torino. La situazione più critica dal punto di vista della circolazione stradale è nel tratto appenninico dell'autostrada del Sole fra Rioveggio e Barberino di Mugello, dove neve intensamente. Il transito dei veicoli pesanti è stato temporaneamente vietato per agevolare gli interventi dei mezzi spazzaneve e spargisale, stessa misura anche in alcuni tratti della Firenze-Pisa-Livorno e della Torino-Savona. Sempre al nord, Venezia è invece costretta a fare i conti con l'acqua alta, la marea oggi ha raggiunto i 110 centimetri, mentre a Trieste le raffiche di bora hanno toccato i 112 km orari. In gran parte del centro-sud piove invece da ore, venti forti e mareggiate stanno creando problemi ai collegamenti marittimi con le isole, rovesci e temporali insisteranno su Lazio e Marche, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria. Le previsioni meteo per le prossime ore e per domani non promettono nulla di buono, per un miglioramento bisognerà aspettare almeno fino a sabato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per fare un punto di quello che sta succedendo sull'autostrada e non solo, abbiamo sentito anche Maurizio Mainetti, che è direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna. La situazione è che il percorso in direzione Firenze, Bologna verso Firenze, c'è l'interruzione per ragioni legate alle nevicate, ma anche ad un contestuale incidente, mentre dall'altra, diciamo, la direzione invece Firenze-Bologna è percorribile, ma comunque nevica e continuerà a nevicare, quindi ci aspettiamo un aumento delle criticità. Ci sono altre criticità oltre a quelle sull'autostrada? Ma direi ci sono criticità nella collina e nella prima pianura bolognese per quanto riguarda i corsi d'acqua, perché alcuni corsi d'acqua minori che vanno da Bologna verso Imola hanno dei livelli idrometrici abbastanza alti, e quindi abbiamo attivato una fase di preallarme con un monitoraggio molto attento. Ci sono alcuni episodi di frane che si sono verificati, una piccola frazione con 20 famiglie nel comune di Sasso Marconi risulta isolata in questo momento. E poi c'è la situazione della costa, dove c'è la mareggiata in atto con alcune ingressioni di acqua marina nei tratti prospicenti alla spiaggia, e con una previsione di peggioramento nel corso della notte, quindi con una onda prevista più alta e quindi con la previsione di ulteriore criticità lungo la costa. Dunque, la storia della quale ci vogliamo occupare adesso arriva da Agrigento, dove sono scesi in piazza i cittadini per protestare contro quello che è successo all'interno del Consiglio Comunale. Che cosa è successo? Sono state fatte una serie di riunioni sostanzialmente fittizie, sostanzialmente false delle commissioni, in tutto oltre 1000, che hanno permesso ai componenti di queste commissioni, ai consiglieri comunali, di incassare complessivamente 300.000 euro finte perché duravano pochi minuti. Tutto questo è avvenuto nel corso del 2014. Naturalmente, per metà di quest'anno il sindaco, poi dimissionario, era Marco Zambuto, che è in linea con noi. Buongiorno Zambuto. Buongiorno a voi. Allora, ci può dare una spiegazione soprattutto sulla prima metà dell'anno, quella che la riguarda? Allora, questa è una vicenda che io ho denunciato pubblicamente proprio lo scorso anno, perché vedevo come attraverso dei raggiri vi era un numero spropositato di riunioni, di commissioni che venivano fatte dai consiglieri comunali al fine di arrivare a un tetto massimo di indennità mensile che gli stessi potevano percepire, per cui si facevano un tot di commissioni affinché si arrivasse a percepire all'incirca 1.500-1.700 euro mensili da parte dei consiglieri comunali. Questa vicenda che io ho denunciato, voglio sottolineare come dal punto di vista legislativo, quindi delle competenze, il sindaco non ha alcuna competenza sul funzionamento e l'organizzazione dei lavori del consiglio comunale e delle sue, diciamo, dei suoi organi. Dicevo, questa vicenda che ho denunciato ha fatto sì che i consiglieri comunali volessero fare nei miei confronti una mozione di sfiducia. Mozione di sfiducia che poi non hanno fatto, ma il fatto politico della mia denuncia del maggio scorso oggi si può recuperare attraverso gli articoli di stampa di quel tempo. Questo per quanto riguarda la sua gestione, ma com'è possibile un meccanismo di questo genere, Zambuto? Me lo spiega? Ma guardi, il meccanismo perverso, ripeto, che hanno adottato i consiglieri comunali, e la cosa che io temo, devo dire, è che non riguardi soltanto Agrigento, ma sia una prassi che riguarda tanti altri comuni d'Italia, è che proprio al fine di raggiungere quel tetto di indennità previsto nei capitoli di bilancio di ogni comune, i consiglieri comunali si organizzano le commissioni consiliari. Ora io non voglio generalizzare, è chiaro che ci saranno le riunioni nelle quali magari è necessario fare gli approfondimenti, però quando poi tu vedi uno spropositato numero di commissioni, allora, in una macchina amministrativa, e devo dirle che io mi accorsi di questa vicenda, perché... Senta, ci dà intanto, mi scusi, giusto per darci una misura, che dimensione ha il bilancio di un comune come Agrigento? Allora... complessivamente, quello che potremmo definire in un'azienda il giro d'affari, per così dire. Allora, parliamo di circa 100 milioni di euro. 100 milioni di euro. E su questi 100 milioni di euro parliamo di circa 300.000 euro, quindi diciamo una cosa piuttosto consistente complessivamente. Allora, ma poi le devo dire, io mi accorsi della vicenda perché, impegnato in questi anni a salvare il comune di Agrigento dal dissesto, quando io mi insediai c'era un comune sull'orlo del fallimento con, lei consideri, su 100 milioni di euro, che è, diciamo, il giro, ecco, di affari del comune, detto volgarmente, i debiti del comune di Agrigento erano di circa 40 milioni di euro, cioè eravamo sull'orlo del fallimento. Per cui una volta insediato mi misi proprio a fare la spending review, cioè mi misi a tagliare tutto ciò che era nelle mie competenze poter tagliare. L'unica cosa che non riuscii a tagliare perché non rientrava nelle mie competenze era proprio questa relativa all'indennità dei consiglieri. Perché lei dice il consiglio comunale ha una sua autonomia, un po' sì, come le camere rispetto al governo, giusto per dare un'idea, per cui su quello non poteva intervenire. Certo è Zambuto, mi scusi però, certo è Zambuto che già la dimensione delle riunioni di queste commissioni negli anni precedenti era piuttosto alta. Cioè, quello che dico, lei mi dice, io è da maggio dell'anno scorso che denuncio, e però diciamo per quest'anno parliamo di 1200 circa riunioni, l'anno precedente erano 900, che pure sono tantine. Assolutamente sì, ma guardi, io non voglio giustificare, ma tengo a precisare la differenza di e distinzione di funzioni, di compiti e di competenze. Anzi, le stavo dicendo, mentre io con la giunta comunale e l'indennità di sindaco, io la decurtai prima del 30, poi del 50 e poi totalmente decurtata l'indennità del sindaco e della giunta, ripeto, rispetto alle sedute del consiglio comunale e rispetto alla loro indennità, non avevo alcuna competenza per poter intervenire. Un'altra mia denuncia fu quella relativa al fatto che diversi consiglieri comunali venivano a percepire stranamente una strana circostanza che si presentava, cioè consiglieri comunali che venivano pagati direttamente dal comune, cioè la loro, perché erano messi in aspettativa dall'azienda privata dalla quale diciamo percepivano il loro stipendio, e lì la legge prevede che quindi se tu ti metti in aspettativa dalla tua azienda privata, il comune paga gli oneri. Bene, si sono verificate circostanze nelle quali, guarda caso, persone che fino al giorno prima ricoprivano un ruolo diciamo di quadro intermedio, il giorno dopo diventate consigliere comunali, diventano dirigenti di prima fascia, si mettono in aspettativa e quindi vanno a percepire non tanto dalla propria azienda quanto dal comune, quindi dai contribuenti, vanno a percepire il loro stipendio. Quindi c'erano, per esempio, ci sono stati consiglieri comunali che mensilmente, oltre a percepire 1.000-1.500 euro di indennità di consiglio comunale complessivamente considerato, percepivano all'incirca 4.000 euro per lo stipendio, proprio per questo meccanismo. Netti? Sì. Quindi 4.000 euro più 1.500 per le commissioni consiliari, sì, sì, sì. 5.000 euro al mese e sì. Non... Tutti pagati dal bilancio comunale, le devo dire. Non a Lugano, ma a Agrigento, che non è un posto dove il costo della vita sia così elevato. Soprattutto, le dicevo, soprattutto in un momento nel quale io stringevo la cinghia delle finanze comunali, e soprattutto ho cercato, e devo dire ci sono riuscito, a evitare che il comune di Agrigento andasse in dissesto finanziario. E siamo alla politica, il famoso patto del Nazareno. Quante volte abbiamo sentito questa espressione in queste settimane? Lo ricordiamo, il patto del Nazareno è quel patto tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, stilato nella sede del Partito Democratico nel Largo del Nazareno a Roma, per il quale ci si accorda sulle riforme costituzionali. Patto che a questo punto Forza Italia, visto che è saltato l'accordo sul Quirinale, ritiene non rispettato. Il punto sulla giornata di oggi con Elisabetta Fiorito. La rottura del patto del Nazareno provoca interrogativi sulla tenuta delle riforme istituzionali nelle aule parlamentari. Si fa strada l'ipotesi della creazione di un gruppo di responsabili che vada ad incrementare la maggioranza di governo e quella delle riforme. E così almeno si renderebbe ininfluente Forza Italia e si raggiungerebbe l'obiettivo di andare alle elezioni nel 2018. Smentisce però il vice segretario Dem Deborah Serracchiani. I numeri di Forza Italia non saranno più necessari. L'Italicum verrà approvata alla Camera così come è uscito dal Senato, mentre per quanto riguarda la riforma del Senato e del titolo quinto riteniamo di avere i numeri sufficienti, che ricordiamo per i radioascoltatori devono essere i 2/3, perché si tratta di una legge di riforma costituzionale. Ma anche la maggioranza sembra però scricchiolare per gli attacchi del nuovo centrodestra. Fabrizio Cicchitto chiede al Premier Matteo Renzi di superare il delirio di onnipotenza e poi dice non si capisce bene se il patto del Nazareno è finito e sospeso. Ieri a Porta Renzi ha usato toni duri, non si è rotto il patto, si è rotta Forza Italia. Intanto dal partito azzurro Raffaele Fitto continua ad attaccare Silvio Berlusconi ai vertici. È stato un suicidio politico, dice, approvare la legge elettorale in quel modo. A te Simone. Come già si diceva in apertura, molti ascoltatori ci hanno scritto, molti ascoltatori, probabilmente militanti o comunque persone che hanno votato il Movimento 5 Stelle, dicendo non avete detto con abbastanza forza, segnalato con abbastanza forza, data la notizia che il Movimento 5 Stelle ha chiesto che si discuta il disegno di legge anticorruzione già la settimana prossima in Parlamento, in aula. E a fronte di questa richiesta del Movimento 5 Stelle, questa richiesta del Movimento 5 Stelle di calendarizzare il provvedimento la settimana prossima è stato bocciato. La notizia l'abbiamo data, a questo punto l'abbiamo data tanto durante la trasmissione quanto qua. Naturalmente si è alla ricerca di un accordo anche tra le altre forze politiche su cosa deve essere contenuto all'interno di questo DDL anticorruzione, che in realtà c'è già, però ovviamente ha bisogno di qualche ridefinizione. Lo dice lo stesso presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, il quale pure chiede una corsia preferenziale per tutto questo. Ebbene, di questi temi si è parlato stamattina all'inaugurazione del anno giudiziario del Consiglio di Stato, ne ha parlato anche il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, e tra l'altro era il primo appuntamento istituzionale dopo il giuramento e il discorso per il neo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci racconta tutto Alessandra Schepisi. È stata la prima uscita pubblica per il nuovo capo dello Stato, che ha presenziato, come tradizione vuole, alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a Palazzo Spada, senza intervenire né rilasciare commenti, ma era del resto prevedibile. La cerimonia di oggi, durante la quale è stato fatto un bilancio della giustizia amministrativa, è stata anche occasione per parlare di corruzione. Era infatti presente il ministro della giustizia Orlando, il quale ha annunciato una possibile svolta per il disegno di legge anticorruzione fermo ormai da troppo tempo in Parlamento. Sentiamo. Entro la giornata di oggi arriveremo a una definizione puntuale di tutte le questioni controverse, che è naturale ci siano quando si affronta un tema così importante, anche che ha necessità di interventi che devono essere valutati e approfonditi in modo sistematico. La proposta del Presidente Grasso è un punto di partenza rispetto a una valutazione che il Parlamento deve fare. Io sono certo che entro la giornata arriveremo a una definizione che ci consentirà anche di procedere speditamente in commissione, in aula, e poi arrivare alla Camera con maggior speditezza, così come è avvenuto sulla responsabilità civile. E sul disegno di legge anticorruzione ricordiamo che proprio ieri il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Cantone aveva sollecitato una corsia preferenziale. Di corruzione ha parlato oggi anche lo stesso presidente del Consiglio di Stato Giovannini, spiegando che la scarsa efficienza delle pubbliche amministrazioni, le loro difficoltà operative, i fenomeni di corruttela vasti e ramificati impongono la presenza di un giudice amministrativo forte, indipendente e autorevole. Da Roma è tutto. Infine il calcio. Tanto abbiamo parlato della crisi della Roma, non potevamo farci mancare il problema Inter, che ieri ha perso al 93esimo minuto dal Napoli. Dario Ricci. C'è crisi e crisi, viene da dire, perché mentre quella della Roma è piena di punti interrogativi, quella dell'Inter, proprio da, a partire dalla partita di ieri sera, sembra far intravedere qualche bagliore positivo. Insomma, un Inter che esce sconfitta in virtù del gol di Higuain nei minuti di recupero e dell'errore di Ranocchia, che ha lasciato via libera al bomber argentino, ma un Inter che comincia a prendere la forma che ha in mente Mancini, pur tra tante difficoltà, tra tante contraddizioni. Quindi in fondo al tunnel una luce si intravede. Per questo Napoli è quasi un Higuain dipendenza, direi, nel senso che Gonzalo Higuain sta diventando il giocatore sempre più essenziale, sempre più importante, goleador che fa sia qualità che quantità, sia gol, e a questo punto l'assalto da parte dei partenopei è lanciato sia la Coppa Italia, cioè da giocare la semifinale con la Lazio e poi chissà l'altra semifinale, lo ricordiamo, è Fiorentina-Juventus, sia anche, perché no, a quel secondo posto proprio di una Roma che traballano un poco di questi tempi. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Vi ringrazio come sempre per averlo scaricato, vi ringrazio ancora di più se tramite i vostri smartphone, i vostri lettori MP3, i vostri computer vi siete iscritti, perché in questo modo avrete l'aggiornamento sempre, cioè nel momento nel quale arriva il podcast di Effetto Giorno ce l'avete, è la cosa più semplice da fare se naturalmente ci tenete ad ascoltare questa trasmissione e gli approfondimenti che vi offriamo ogni giorno. Se non ci tenete invece, spiegatemi il perché e fatelo scrivendomi a effettogiorno@radio24.it, sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure scrivendomi anche su Twitter Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Spezia, e quindi là mi trovate facilmente. Una buona giornata a tutti e ovviamente ci si sente domani alle 13.